Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra lo vide, gli si gittò dinanzi pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Ecco, Gesù si trova a fare un miracolo ad un lebbroso. Chi erano i lebbrosi? I lebbrosi erano coloro che erano non solo affetti da una grave malattia, ma erano emarginati, erano segregati, erano veramente discriminati e soffrivano moltissimo. Immaginate un uomo, una donna, una persona che si scopre lebbroso, ma è una cosa terribile. La lebbra consiste nella mancanza di sensibilità in tutte le membra. La sensibilità è importantissima. Se noi non abbiamo la sensibilità, se il nostro corpo si addormenta, noi rischiamo di morire non per il fatto direttamente della lebbra, ma per il fatto, per la conseguenza del non sentire, del non avere più la sensibilità e il tatto. Perché se tu tagli ad esempio una mela e non ti accorgi che ti stai tagliando, magari ti sfugge il coltello, ti tagli il dito, non te ne accorgi e ti ferisci. Il lebbroso è una persona che non ha perso la sensibilità in tutte le parti del corpo e si ferisce continuamente, ma non solo, le membra vanno in putrefazione e cadono. È una malattia terribile. Immaginate scoprirvi con questa malattia, ma che cosa orribile! E ai tempi di Gesù non c'erano le medicine che ci sono oggi e le persone dovevano, anche se avevano famiglia, figli, dovevano allontanarsi dai luoghi abitati e ogni volta che venivano vicino a qualcuno dovevano dire: immondo, immondo, allontanatevi. Dovevano avvertire della loro presenza in modo che nessuno li toccasse. E Gesù invece che cosa fa? Prima di tutto il lebbroso stesso ha il coraggio di ardire, di andare vicino a Gesù. E dice, lo prega e dice: Signore, se vuoi puoi purificarmi. E Gesù poteva dire: sì, lo voglio. E invece che cosa fa? Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. Gesù non si accontenta di parlare, di dire, ma lo tocca. E sa benissimo che toccare un lebbroso vuol dire essere immondo. Ma Gesù va al di là delle regole religiose dell'epoca e lo tocca proprio per far capire quanto è importante il contatto, quanto è importante un amore che si fa vivo, che si fa carne, che si fa presente non soltanto a parole ma con i fatti. Allora questo ci deve spingere anche a noi ad essere più sensibili, a dimostrare l'amore, non soltanto a dire che vogliamo bene alle persone, ma a dimostrarlo anche con tutti i sensi, anche con il tatto. Ovviamente c'è modo e modo di toccare, ma quando impariamo a toccare veramente con amore, noi impariamo a vivere e impariamo, paradossalmente, è proprio così che impariamo la vera purezza, impariamo a non usare le persone, ma a usare i nostri sensi per manifestare il vero amore, il vero interesse per le persone. Quanto è importante che il nostro amore sia vivo, quanto è importante il calore umano. La gente vuole questo, la gente vuole vedere l'amore, non vuole sentire parole, vuole vedere fatti. Allora ecco, Gesù oggi ci spinge a questo, ci spinge non tanto a dire che vogliamo bene alle persone, ma a manifestarlo con tutto il nostro cuore, ma anche con tutte le nostre forze, ma anche con tutto l'affetto del cuore che si fa visibile, tangibile. Allora chiediamo al Signore veramente la grazia, prima di tutto, di farci noi toccare da Gesù, perché se noi ci facciamo toccare da Gesù, siamo purificati. Prima di tutto chiediamo al Signore anche noi, Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E ognuno ha da purificarsi da qualcosa, quindi facciamoci toccare prima di tutto dal Signore. Il modo più diretto per essere toccati da Gesù è sicuramente ricevere l'Eucaristia. Lì Gesù ci tocca in maniera profonda. E poi anche noi a nostra volta cerchiamo di manifestare concretamente l'amore agli altri. E per concludere vorrei citare questo aforisma che dice così: le persone che sanno accarezzare sono quelle che amano di più. La carezza è il gesto di amore più intenso di tutti. Buona giornata.